nella crisi del Barcellona non credo, perché abbiamo visto le partite, è un po' altalenante il loro cammino, però ha giocatori forti, ha un allenatore nuovo che sta mettendo insieme le sue idee, quindi ci vorrà un po' di tempo, come dobbiamo avere noi alla Juventus. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Messi spiazza Szczęsny. Ed è 2-0 per il Barcellona. Ronaldo da due passi, la spinge dentro Cristiano Ronaldo e sono 750 in carriera tra club e nazionali. It's not nice to tell who is better because both are incredible good. Il momento attuale di Leo Messi. Un momento particolare della sua vita, non della sua carriera, perché ha avuto qualche problema quest'estate, più che a livello tecnico, penso sia un problema mentale. Sono felice di far parte di questo grandissimo momento, vedere i due migliori al mondo in questo momento che giocano a calcio davanti a te sarà una cosa strabiliante. Mi auguro che il nostro migliore abbia la meglio. E ci siamo al momento della verità del prenatalizio dell'Eurocoppa, un grande classico. Mi viene voglia di chiedervi un pronostico. 800 24 00 24, numero verde, WhatsApp vocali 349 238 6666. Chiederei anche a te, Pierluigi Pardo, se vuoi radiotwittare su questo o su altro. Beh, direi su questo, perché insomma raramente il calcio esprime una sfida come quella che vedremo stasera, e conta abbastanza poco, secondo me, il fatto che siamo di fronte comunque a una partita di difficile senso. La Juve potrebbe e deve, secondo me, ha il diritto, forse anche la leggerezza per poter provare a regalarsi un'impresa che forse cambierebbe anche tutto il percepito di questa primissima parte della stagione, per cui deve crederci. Però è chiaro che il punto di partenza per arrivare primi nel girone è molto complicato. Deve fare 3 gol, subendo al massimo 1. Esatto, deve rimontare un 2-0 fuori casa, deve vincere 3-1, insomma, deve fare. È chiaro che non è semplicissimo, però la partita è meravigliosa. 1462 o 1473, so che questo conto già all'andata ti era piaciuto, poi all'andata la sfida non c'è stata. Stasera ci divertiremo e over. Sì, aggiungo un altro numero che è 31, che sono i mesi in cui Cristiano Ronaldo e Messi, esatto, non si guardano negli occhi su un campo tantissimo tempo. Roberto De Ponti, direttore della edizione fiorentina del Corsera. Ciao direttore. Buongiorno a voi. Buongiorno a te. Adesso parliamo di questo, poi magari anche della Fiorentina, che qui aggiungiamo un altro numero che è il 98, il numero della paura in cui pareggia con il Genoa. Però io ti dico la verità, dovessi fare un radio tweet, cosa che non mi compete perché è tutta roba di Pardo, partirebbe dall'altro versante dell'Appennino rispetto a dove sei tu, cioè da Bologna, che in 24 ore brucia due icone della panchina nel basket: Meo Sacchetti per mancanza di risultati, amore non sbocciato, fronde interna eccetera, e Sasha Djordjevic per motivi ignoti, visto da fuori. Beh, visto da fuori sì, visto da dentro probabilmente non tanti ignoti. Il rapporto tra Djordjevic e la società era già abbastanza incrinato. Djordjevic, diciamo che è abbastanza tetragono negli atteggiamenti, e l'ultimo gesto è stato quello in una giornata che doveva essere il Belly Day, con tanto di diretta Rai della partita della Virtus, con il debutto dopo 13 anni di NBA in Italia di Marco Bellinelli, e poi in realtà è diventato un debutto in panchina, perché non è stato fatto nemmeno fare riscaldamento, perché Giorgio, visto dal suo punto di vista, giustamente ha detto non è pronto fisicamente, non lo rischio, sì, ma la realtà è che comunque invece dal punto di vista dell'immagine dell'attesa è stato un boomerang pazzesco, e il risultato è che dopo 48 ore Djordjevic è stato licenziato. E d'altra parte, se un allenatore domani Conte non rischia Vidal in una partita cruciale per l'Inter, se un allenatore in una partita che non è cruciale non vuol far rischiare l'infortunio muscolare di un giocatore appena arrivato che è fermo da un sacco di tempo, io credo che debba farsene una ragione anche la società. Questa è la mia sensazione, cioè quello no, che è penso. Comprensibile, certo. Se arriva a un epilogo così clamoroso, non posso pensare che sia solo per questo motivo, nel senso che non con tutta l'importanza ovviamente anche mediatica di Belli, però non c'è alcun dubbio che insomma una roba del genere si ricompone se c'è poi di fondo una solidità di rapporto, una comunanza di intenti, una stima e la voglia di continuare, per cui è veramente sorprendente. Però Pier, noi a questa generazione vogliamo bene, no? Bargnani, Gallinari, certo. Bellinelli, Datome, eccetera eccetera, doveva essere la generazione dei fenomeni, sono anche amici nostri, però questa generazione dei fenomeni io ho paura che dovrà misurarsi con risultati alla fine un po' deludenti, non trovi anche tu? Ma io sì, sai che insomma seguo il basket, pur essendo il basket il mio sport preferito, lo sport che giocavo da ragazzo, e non cambierò mai idea, però insomma senza avere senza essere un esperto, ecco, senza volermi spacciare come tale, sicuramente sì, cioè sicuramente ci sono stati alcuni momenti, penso anche in nazionale, dove magari abbiamo fatto così, non da esperti, proprio la somma la somma del talento di questi giocatori, ed era lecito aspettarsi qualcosa di più, ma tutti gli sport di squadra lo sappiamo che il risultato di una squadra non è mai pari alla somma del talento, ci vuole anche la capacità di essere ben assortiti, ci vuole anche la capacità di giocarsi alla grande certi momenti, per cui insomma tu ne sai più di me, e se dici questo io avevo questa sensazione, sì, la condivido, se la dici tu la condivido ancora di più. Tu e tu Roberto? Sì, credo che sia una generazione che non ha mai ottenuto quello che teoricamente prometteva. Avrebbe potuto ottenere, certo. Cioè, è stata la generazione più di talento del basket italiano, probabilmente oltre al talento serve altro per vincere, tra infortuni, tra problemi caratteriali, tra mille cose, quando è stato il momento di fare il salto di qualità non c'è mai stato quel passo, è una generazione che ha perso delle occasioni. Ha perso delle occasioni, adesso grande responsabilità sulle spalle di Bellinelli e anche della dirigenza della Virtus, perché per la cronaca mi risulta sia stato rescisso il contratto anche di Markovic, che aveva commentato in maniera molto dura l'esonero del suo connazionale allenatore Teodosic. Ora vediamo, è stata smontata la Virtus serba in corsa, tra l'altro una squadra che comunque a risultati funzionava. Adesso si tratta di ricostruirne in corsa un'altra, voglio vedere. Io ho la sensazione che lì sia stata una lotta tra maschi alfa fuori dal campo, quindi vedere chi era più tosto, insomma. Djordjevic non si è fatto imporre la scelta di Bellinelli, per esempio, ma ovviamente Zanetti e Baraldi non hanno gradito e hanno voluto dimostrare anche chi comanda nella società. Che questo poi comporti il fatto che altri giocatori che stavano a Bologna esattamente perché Djordjevic era lì, certo, vogliono adesso andarsene, e questo è un rischio che la Virtus sta correndo sicuramente. Un'ultima battuta con Pierluigi, perché è anche in questo caso comune amico. Hai sentito come Pozza ha preparato la partita che di Bologna contro la Virtus, vincendo, segnando, tutta questa crisi bianconera eccetera eccetera? Hai sentito cosa ha fatto? No, allora, sentito, allenamento, visto, te lo dico io, no, perché è divertentissimo. Allenamento di rifinitura, si direbbe, del venerdì, cioè quello più importante. Tutto in campo, pronto a iniziare l'allenamento, e Post dice: se un suo giocatore, Katic, segna da metà campo, oggi niente allenamento. Questo tira segna da metà campo, va bene, tutti a casa. Pre-partita, non è finita. Bologna, spogliatoio, riunione, no, prima del match. Entra Pozzecco, l'unica cosa che dice è: ma forse sarò anche il peggiore degli allenatori di Serie A, però sicuramente sono il più figo. Era vestito in giacca e cravatta, ha preso e se n'è andato, ha vinto la partita. Genio totale. Beh, pazzo totale, un pozzo totale. Over the top. Senti, invece, 98 minuto della paura Genoa-Fiorentina, il pareggio del terrore, cosa dici Pierluigi? Dico che stiamo parlando di due squadre che in forme diverse, io credo che la Fiorentina abbia qualcosa in più in assoluto del Genoa in prospettiva, ma che in forme e modi diversi stanno diciamo flirtando con le loro paure, con le loro ansie. È un percorso psicologico, il discorso si allarga anche al Torino, cioè secondo me sono squadre che tutte hanno un valore che è superiore a quello che la classifica dice in questo momento, nel caso di Fiorentina e Torino secondo me in maniera ancora più significativa, ma credo anche nel caso del Genoa. Il problema è che cominci la stagione con pressione, senza questa capacità di essere completamente tranquillo, completamente sereno, la prima difficoltà vai sotto, e questo è quello che sta succedendo. Poi insomma, sullo specifico della partita ieri, vabbè, stiamo parlando di un thriller, quindi però più in generale anche mi scrivono tanti tifosi del Toro sul futuro del Torino, che ripeto includo in questo ragionamento, perché sono tre società storiche con un certo livello quindi di pressione, non sono tre provinciali, sono tre squadre grosse per tradizione, ovviamente poi non sono tre squadre da scudetto, lo sanno gli stessi tifosi, però hanno questo tipo di destino e secondo me le possiamo accomunare. E la Fiorentina per me ha fatto un buon mercato, poi forse una prima punta pesante da tantissimi gol manca, ma insomma, tu hai ragione ad accomunare la Fiorentina, secondo me è una bella squadra, cioè è una bella squadra, comincia così la stagione, c'è quel momento che vai di Indoor in Inter Fiorentina che ti cambia, che lì potevi andare dopo due giornate a 6 punti ed era già tutto diverso, poi parte Chiesa, poi Iachini sicuramente non esalta, poi arriva Prandelli, comincia qua cominciato, insomma. E poi è fino ad arrivare ieri sera. Che si dice in città, Roberto? Guarda, la città in questo momento è terrorizzata dai fantasmi del passato, perché è partita peggio che nella stagione 92-93, quando la Fiorentina poi precipitò negli abissi della retrocessione e poi addirittura del fallimento. Ma la sensazione che si ha è che gli errori siano partiti da molto lontano, cioè è che l'errore cui il povero e Iachini è incolpevole è il fatto di essere stato riconfermato, perché la realtà è che la riconferma di Iachini ha deluso diversi giocatori, quindi se lo spogliatoio ha un Ribéry che si lamenta del fatto che le prospettive non sono buone se si mantiene un allenatore che è considerato di medio cabotaggio, poi a quel punto un giocatore che magari è avanti con gli anni ma che ha un peso specifico importante nell'ottica della squadra, succede che poi i giocatori si sentono, come dire, condizionati e hanno già un alibi per il fatto che la stagione possa non andare bene, perché dicono non abbiamo l'allenatore giusto. Poi una volta che si stacca la corrente, riattaccare è complicato, e adesso c'è una squadra che non sa più come uscire da una situazione complessa e ha paura di ogni passo che fa. Sì, più il centravanti non esiste, quindi questo è vero. Giocare a calcio senza fare gol è complesso. Questo è vero, anche perché Vlahovic sembra ancora molto leggero, Cutrone è onestamente deludente in questa esperienza fiorentina, però il ragionamento complessivo, sportivamente parlando, non è dissimile da quello che abbiamo fatto di qui sopra, sulla Virtus Bologna, cioè quando le decisioni della società possono pesare in maniera così influente sul campo. Stiamo qui tutti, ci fermiamo un attimo ma torniamo subito. Pronostico per Barcellona Juve 2-1 Juve, Ronaldo e Morata. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Non sono per nulla preoccupato, anche perché stiamo parlando di Champions League, stiamo parlando di grandi club, non stiamo parlando di tornei da bar, ecco. Quindi penso che sia deprimente per noi che facciamo questo lavoro sentire dire queste cose o queste illazioni di biscotti. E il calcio è bello, ognuno giocherà per vincere la propria partita, e così faremo noi, farà lo Shakhtar, farà il Madrid, farà il Borussia. Questo Conte che ha parlato poco fa a proposito del grande tema della serata di domani, Pierluigi, confermando che non avrà Vidal e che l'assenza non è da poco, gli crediamo fino in fondo? Sì, ma io gli credo, al di là di tutto, gli abbiamo parlato tante volte in questi giorni, non è un biscotto facile, pur a voler pensare male, non è un biscotto facile, nel senso che non c'è una situazione come quella che ci sarebbe stata con la classifica 8-8-5-5, in cui due squadre sanno che pareggiando si qualificano tutte e due, che qualche volta la storia del calcio si è verificata e abbiamo scomodato appunto l'82, Germania-Austria, Svezia-Danimarca, eccetera. Qui siamo in una situazione invece in cui c'è una certa complessità nell'andamento e nelle ipotesi. Io penso che l'Inter debba innanzitutto pensare a vincere la sua partita, perché con tutta la stima che ho, e sai che ne ho tanta per la rosa di questa squadra, però ha vinto una partita su 5 Champions League ad oggi. Quindi non merita di passare con questo ranking, con questo ruolo di marcia. E affronta una squadra che ha battuto due volte su due Real Madrid, quindi una squadra che deve essere rispettata. C'è questo piccolo grande aspetto, speriamo che non diventi grande. Ovviamente che parlavamo con Don l'altro giorno, cioè che se vai troppo presto in vantaggio, un vantaggio molto ampio, molto abbondante, è chiaro che nella società interconnessa di oggi le notizie arrivano e il Real Madrid, se ci fosse una situazione di sostanziale parità, potrebbe decidere di accontentarsi. Ma questo, ripeto, secondo me è un ragionamento che potrebbe entrare in ballo soltanto negli ultimi minuti, e l'abbiamo detto anche ieri. Ma pensi sia una cosa a cui penseranno all'Inter, non solo in questo mondo interconnesso, anche qualche annetto fa c'erano le radioline, quelli che andavano in panchina, la radiolina. È chiaro che si giocheranno due partite praticamente sullo stesso campo, no? Io credo che l'Inter debba, l'unica piccola attenzione in più rispetto al passato, se dovessi parlare proprio di gestione delle energie, magari debba non partire con un furore pazzesco proprio per questo ragionamento qui, perché se si dovesse trovare ad avere un vantaggio molto consistente, che poi è difficile avere un vantaggio molto consistente, nel senso che non è poi tutti questi 4-0, dovresti stare con 2-3 gol di vantaggio dopo mezz'ora, non lo so, io penso che sia... che abbia ragione in linea di massima Antonio Conte, che un allenatore debba dire alla sua squadra di non fare ragionamenti, semmai come piano tattico della gara non partire fortissimo può essere un'idea, o perché la partita è lunga, è una scelta che si fa in tantissime partite, e in questa in maniera particolare aspettare un po' può essere un ragionamento che ha un suo senso. Il calcio è come la vita, ti sorprende sempre, non sai quello che c'è fuori. Anche perché poi dall'altra parte c'è la Real, che magari pur in una situazione disastrosa come quella di quest'anno avrà mezza idea di provare a vincere il girone. Anche questo è un tema. Real Madrid vorrà provare a vincere il girone, anche perché Real Madrid sa che se invece pareggia e però poi il risultato di San Siro non è quello buono, esce Real Madrid. Certo, la situazione è delicata anche per loro. È chiaro che ragionando così in astratto, il 3-0 al 60esimo dall'altra parte giocano a tamburello. A Madrid giocano a tamburello, sporchi Roberto De Ponte. Sport delle langhe. Sport del pallone elastico. Che conosce bene anche Roberto De Ponte. Sei d'accordo con quanto diciamo, no, Roberto? Assolutamente. Sono d'accordo con Pierluigi, soprattutto sul particolare non poco che per cominciare l'Inter deve vincere. Perché anche nella passata stagione si ritrovò nella stessa situazione del discorso biscotto sì, biscotto no. Poi il biscotto dall'altra parte non ci fu, ma l'Inter non vinse la partita e si ritrovò eliminata. Quindi non è che le cose siano state poi diverse da un'eliminazione per un accordo tra le squadre dall'altra parte. Io direi che l'Inter cominciasse a vincere la sua partita e poi i risultati dall'altra parte possono essere tre. Può anche accadere che il pareggio si verifichi e non è necessario che sia attraverso un biscotto, ecco. Cioè, l'Inter deve giocare la sua partita, come dicono quelli bravi, e poi contare sul fatto che comunque il risultato di San Siro in realtà fino all'ultimo non mette in tranquillità le altre due squadre, e quindi conviene che le altre due squadre giochino. Allora, rispondiamo insieme a Giuseppe da Bari, poi aggiorno la seduta. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Carlo e Pierluigi, scusate l'intrusione, volevo parlare di un calcio minore. Dalla Champions passiamo al pessimismo cosmico granata. Non so, questa predisposizione del Torino a farsi del male da solo, perdendo le partite, non so se avete seguito quella vicenda un po' comica di Jacopo Segre che mostra con orgoglio e sorriso la maglia di Dybala. Capisco che ha 23 anni, capisco che il mondo è cambiato, però forse Pulici, Graziani, questa gente potrebbero un po' insegnargli un po' di orgoglio granata a questi ragazzi, e vorrei che la società Urbano Cairo, che è molto attento a queste cose, intervenga anche pubblicamente, perché insomma dopo una sconfitta non fai nessun sorriso, non mandi nessun WhatsApp con la maglietta della squadra avversaria, fermo restando che nella vita privata possono anche andare a cena tutte le sere come fa Belotti con Bonucci, non c'è problema. Beh, non ha torto secondo me Pier. No, beh, siamo in una società dove molto spesso le cose, dove nulla si distrugge, ecco, dove tu magari mandi una cosa privata e diventa pubblica. Questo aspetto, sai, che per me è, tante volte in questi anni l'abbiamo affrontato, per me le cose private sono private, le cose pubbliche sono pubbliche. Quando ogni tanto sentiamo delle conversazioni private che vengono utilizzate, ci fanno tutto un effetto, improvvisamente ci danno un senso di scabroso, ma chissà, magari pure nelle nostre conversazioni sono tante cose che non interpretate, non contestualizzate nella maniera giusta, potrebbero essere considerate non appropriate. In più generale sul Torino, credo che il discorso che facevo prima, secondo me la squadra è una squadra discreta, è una squadra che insomma sono passate 10 giornate, ne mancano 28, è una squadra che per me il salto in avanti in classifica lo farà. È una squadra che fa fatica a vincere le partite con le piccole, questo è un po' un problema, mentre se la gioca bene, quasi sempre bene, con grande dignità, con grande onore con le grandi, però poi alla fine perde, e perde in rimonta molto spesso. Quindi questo è un dolore, immagino, enorme. Tutto è acuito dalla straordinaria storia granata, bellissima, romantica, letteraria, con tutto questo tremendismo e questo senso anche in certi momenti di essere proprio un po' sfigati, di cui gli stessi tifosi del Torino con grande autoironia parlano. Ed è, però insomma, io credo che nel medio periodo questa stagione si sistemerà, e penso che il Torino, al netto di tutto, negli ultimi anni, e mi riferisco agli ultimi 15 anni, non certo alle ultime stagioni che non sono state buone, è tornato a essere una realtà importante del calcio italiano, perché è esistito un Torino che vinceva i campionati e sarebbe bellissimo che tornasse quel tempo lì, che il Torino potesse quantomeno competere, ma è esistito anche un periodo in cui il Torino non esisteva più, sì, tecnicamente certo, parlando, ha vissuto vicende. E negli ultimi 15 anni, secondo me, bisogna c'è fare una crescita, poi si può sicuramente imputare qualche acquisto sbagliato, però bisogna fare una media sicuramente, fatto sta che a me sembra bisogna fare punti, più che fare punti, però cominci a mettere due vittorie e ti cambia completamente lo stato d'animo e l'umore, sì, però tante volte il Toro c'è andato vicino. Vedi, siamo sempre lì, Roberto, torniamo a parlare di allenatori, perché anche in questo caso, anche nel caso del Torino, insomma, prendi un allenatore che ha bisogno di certe cose per un progetto particolare, è molto difficile avere tempo, avere punti con una squadra che non è fortissima, diciamoci la verità. Ecco, io non so se la squadra sia fortissima o meno, cioè, la realtà è che rispetto a Iachini, Giampaolo però è arrivato avendo alcune garanzie su un tipo di giocatori che si desiderava. Cioè, mentre Iachini è arrivato a Firenze, cioè è rimasto a Firenze ben sapendo che avrebbe fatto un tipo di gioco che non si adattava ai giocatori che già c'erano e che soprattutto sono stati presi poi. In realtà sul Torino il discorso è diverso. Forse sul Torino, non vorrei essere, come dire, impopolare, ma forse Giampaolo va ancora aspettato, nel senso che poi quando ha avuto il tempo di lavorare sui giocatori, in realtà i risultati li ha ottenuti. Certo, l'ultima esperienza non è stata proprio brillantissima, diciamoci la verità, ma lì effettivamente il tempo non gli è stato minimamente concesso. È un problema, se si punta su un allenatore come Giampaolo bisogna anche esatto. dare il tempo. Cioè, lo stesso Castellini a Bergamo ha rischiato di saltare dopo 6 giornate, poi in realtà adesso è intoccabile per ovvi motivi. E di gioco. Non c'è dubbio su questo. Il problema è che il piatto piange, e quindi il Torino è laggiù in fondo, e non so quanto si siano dati come tempo per aspettare che arrivi il Torino di Giampaolo. Ciao Roberto, grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Saluto anche te, Pier. Stasera ti ascolto. Canale 5, stasera no? Stasera mi ascolti, io adesso ascolto il Bar Tour. Canale 5, no? Canale 5, facciamo il Bar Tour su Canale 5? No, facciamo no, Barza, no, Bar Tour sulla 24, poi tu. Barza, beh, chissà, magari un giorno, un domani. Adesso Bar Tour, stasera Barça Juve. Ciao. Borze. Oh, ma vi pensate vedere gli interisti finalmente al ristorante con 100 euro e mangiarsi un biscotto? Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Immagino che il direttore artistico abbia scelto questa perché credo che questa sia la musica di sottofondo al Banchetto degli Dèi. Potrei sbagliarmi, però. No, sinceramente credo che il direttore artistico l'abbia scelta perché è una canzone meravigliosa. Tu puoi dire che io sono un sognatore, ma non sono l'unico. Tant'è vero che amo Radio 24, adoro tutti i convocati e la mia rubrica preferita è il Bar Tour. Anche perché c'è un altro sognatore che si chiama Leo Turrini. Buongiorno. I'm not the only one, eh? Not the only one. No, io ho sempre saputo che il direttore artistico ignoto di questo programma è un genio. Sono appunto i 40 anni dalla scomparsa di John Lennon e è uno di quei momenti che per la nostra generazione hanno fermato il tempo, no? Perché Lennon è stato la musica, nella poesia, quello che è stato Maradona con il pallone tra i piedi, e sono felicissimo di questa scelta. Dopodiché, visto che dobbiamo sempre ancorarci al presente, all'attualità, io mi domando e vi chiedo, dopo aver visto questo recente Gran Premio nel deserto del Bahrain, no? Ma se John Lennon avesse detto io sono ammalato e non posso comporre canzoni per un po' per i Beatles con McCartney, e fosse arrivato uno semi sconosciuto ragazzotto con una chitarra, no? E questo tizio avesse scritto canzoni bellissime come quelle di Lennon, noi che domanda ci saremmo fatti? E quindi Lewis Hamilton si starà ponendo questo quesito. Cioè, dopo anni tutti noi a dire io, Marino Bartoletti, Maestro Genta, l'universo mondo, un grandissimo, un fenomeno, un fuori caso. Arriva uno che si chiama Russell, no? Che partiva sempre dall'ultima fila, monta sulla stessa macchina e il Mercedes si sono dovuti inventare di tutto. Io la credo radio che non funziona, fammi venire, perché cose sono davvero corbante. La radio che non funziona. Cambio gomme non necessario, gli hanno montato le gomme di Bottas, questo vinceva lo stesso, questo John Lennon, lui seguito al redivivo, e allora gli hanno dovuto dire forse hai farato. Allora io lascio la parola a Marino Bartoletti, autore di questo capolavoro letterario, voglio dire che si avvicina alle prime del Manzoni, di Virgilio, ma vorrei anche evocare insomma altri personaggi della letteratura, Edgar Allan Poe eccetera. Allora Marino, abbiamo esagerato per anni a celebrare Hamilton, con quella macchina lì vincerebbe anche mia zia, qual è la tua opinione? Diccela dall'alto dell'Empireo, digli il pranzo degli dèi, la cena degli dèi, questo tuo capolavoro, diccelo. Ok, che sono fiero di andare al Neu Center di San Lazzaro di Savena a cambiare le gomme. Non è una risposta questa qui, perché devi dire c'è un senso in tutto, cioè, ma sai, prima abbiamo evocato anche Maradona, no? È come se Diego non poteva giocare col Napoli, entrava, no, Zola, che era anche buono, no? Ma Volpecina, quello se lo ricordo, che era nel Napoli campione d'Italia, e Volpecina giocava uguale a Diego. Ma forse qualche domanda ce la saremmo fatta. Io credo che avrebbero fatto come la Mercedes, cioè avrebbero seminato, tornando a John Lennon, chiodi sulle strisce di Abbey Road, no? Quella famosa. Cosa dici? Pensando che Volpecina ha fatto il gol scudetto facendo vincere il Napoli a Torino l'anno appunto dello scudetto. Però io da domenica ho la ferma convinzione che Tafazzi ha cambiato le mutande rosse e si è messo il cambiato le mutande nere e si è messo il sospensorio rosso, perché su quello picchia la Ferrari e si fa male, e ci fa male, porca miseria. Cioè, se non fai un qualcosa di buono anche in quel giorno in cui sul podio ci sono, non possiamo dire tra sconosciuti, aiutatemi ragazzi, voi che ne sapete più di me, ma uno che correva da 10 anni in Formula 1 non aveva mai vinto, uno che non aveva mai dato sul podio. Cioè, ma io vorrei integrare il discorso da Piero Cormano in questa giornata dell'Immacolata Concezione. Voi sapete, forse perché non è detto che siate così patiti, che la settimana scorsa la Ferrari ha annunciato che il responsabile del telaio, che si chiama Simone Resta, l'ingegnere, non resta la Ferrari perché viene passato alla AS. Quindi resta, non resta, ma il problema è che Binotto binotta. Da cui noi continuiamo in questa realtà. Ma io dico, allora, in questa stagione totalmente dominata da Mercedes, se avete visto Russell, avrebbe vinto anche Marino Bartoletto su quella macchina. Sicuro. Diciamo, io sono stato in macchina con Marino certe volte, guida anche bene. Devo dire, quando si assopisce è un po' un problema perché ha un metallo, allora gli do un colpo col gomito, però guida anche bene. Avrebbe vinto anche Bartoletti con questa Mercedes. Però comunque, cioè, una gara l'ha vinta l'Alfa Tauri, una gara l'ha vinta la Racing Point. Che cosa possiamo dire della Ferrari? Che è non pervenuta come la temperatura di Ulaanbaatar quando io ero bambino, c'era il bollettino dei naviganti, no? Prima c'era Bartoletti che era già alla radio, Bartoletti c'era già di 50-60, a un certo punto dicevano l'intervallo delle partite, adesso trasmettiamo il bollettino dei naviganti, no? E dicevano le temperature. Però c'era Atene 33, Leningrado 4, no? Poi dicevano Ulaanbaatar non pervenuto, perché non avevano notizie dalla Mongolia. Ecco, la Ferrari di Binotto che Binotta è come la temperatura di Ulaanbaatar della Mongolia, non arriva mai. No, va detto che Marino ti unirai a una menzione d'onore per Verstappen per non aver tirato una testata a Carletto. No? Non solo la testata, poteva brandire il casco e farne un cattivo uso, devo dire. Però guarda, alla fine di tutto questo resta l'orgoglio mio di Turrini quando alla fine degli anni 50, passeggiando nei dock di Liverpool, vedemmo un ragazzo con la chitarra in mano, con gli occhialini, che si chiamava John, e dicemmo entrambi: quel ragazzo fra pochi giorni fonderà i Quarrymen e un giorno si farà. Ma non solo, poi voglio dire anche un'altra roba, perché la sappiamo solo io, Marino e il fotografo, perché quando fu fatta la famosa copertina, vi ricordate, forse Sgt. Pepper's Lonely Hearts, no? Certo. Famoso disco storico, forse il più bel album di tutti i tempi, ci sono tantissime faccine su quella copertina, no? C'è Stony Liston, c'è Muhammad Ali, c'è Bob Dylan, c'è personaggi così. Se voi andate a prendere... No, c'è Marilyn Monroe. No, calma. Se voi andate a prendere quella copertina, no? Vi renderete conto che verso la destra in basso c'è la faccina di Pardo, perché i Beatles sapevano già che a Pardo sarebbe stato tolto Tiki Taka, no? Per darlo a Cambridge, e volevano protestare in anticipo, come appunto quella è una copertina di protesta che c'è appunto lì. E d'altra parte sono sempre stati dei visionari, no? Vari protagonisti del dissenso, no? Della difesa dei diritti umani. E c'è anche la faccina di Pierluigi Pardo, e io e Marino, che eravamo dietro il fotografo, diciamo: metti bene quel mosaico lì, che si capisca che Pardo confinato su Dazzone disperso, non so nemmeno se è ancora contenta. Quindi facciamo un appello per il ritorno di Pardo a Tiki Taka, di nuovo firmando qui dalla coda della Piero Cormano, tutti assieme. Poi voglio dirvi un'ultima cosa: domani sera Borussia e Real Madrid pareggiano, lo dico a tutti, allora... i miei interista. c'è una pasticceria già aperta a Madrid. Di questo vorrei parlare con calma dopo il traffico, se me ne date il tempo. Vorrei parlare di questo, ma anche vorrei sentire da Marino una battuta pure su Mick Schumacher, perché ho visto quanto ha scritto. Il difficile viene adesso, Marino. You may say I'm a dreamer, è stato bello vedere quel ragazzo vincere con quella tuta rossa, con quella faccina teutonica, vincere solitamente, vincere non grazie a nessuno, perché se Dio vuole comunque lo sport, nello sport i nomi contano fino a un certo punto, ma quando sali in macchina le cose le devi fare tu. Quando sentivo parlare prima di Haas, della Ferrari che la sta rafforzando, già provavo un certo brivido. Vedere quel ragazzino, non a me ma a tutti, figuriamoci a Leo, vincere questo titolo che conta e non conta, 21 anni, sapere che esordirà in Ferrari, in Formula 1 a 22 anni, che aveva un anno quando suo padre vinse il mondiale, lasciateci sognare, porca vigliacca, come dice il mio amico Savio che ci sta ascoltando in questo momento. Traffico e torniamo subito. Oh ragazzi, ma si sempre il Drelavurer. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Mamma mia Leclerc, che disastro, mamma che disastro. Questo pilota George Russell è veramente forte, è un talento, forte in prova, forte in gara, forte nel corpo a corpo con gli altri piloti, forte nella gestione anche della gara, quindi Lewis Hamilton, comincia a preoccuparti. Se l'Inter esce in Coppa non è per colpa del biscotto di Madrid, ma è colpa delle pere che hanno preso nelle partite precedenti, mi sembra evidente. Allora, Leo Turrini mi deve dire la sua su Mick Schumacher. Allora guarda, e poi parliamo di biscotti e di pere. Sì, sì, su Mick ti dico che lui ha finito brillantemente gli esami, adesso deve discutere la tesi di laurea. Io, come facilmente immaginabile, voglio un bene dell'anima a questo ragazzo, bambino, penso che sia una storia molto struggente. Mick, tra l'altro, è vero che all'inizio della sua carriera è stato aiutato da questo cognome che chiaramente attira una visibilità straordinaria, però poi doveva vincere, lo ha fatto in Formula 4, lo ha fatto in Formula 3, lo ha fatto in Formula 2. A me piace molto l'approccio graduale che sta seguendo, non ha voluto bruciare le tappe, vedrete, lo dico anche agli appassionati, che al debutto in Formula 1 dovrà battersi nelle retrovie, perché la Haas motorizzata Ferrari non è la Mercedes che ha guidato Russell, per capirci. Però il sogno che abbiamo tutti è che un giorno possa davvero entrare nell'abitacolo della Rossa di Maranello. Tra l'altro aggiungo, e poi mi taccio un'ultima cosa, negli ultimi 10 anni in Formula 1 la Ferrari ha sbagliato praticamente tutto. L'unica cosa buona che hanno fatto è stata questa Driver Academy, sì, questa scuola, sì, per giovani piloti, dalla quale sarebbe uscito a grandi livelli Jules Bianchi se il destino non lo avesse fermato in modo crudele, dalla quale è uscito Carletto Leclerc, che nonostante l'errore di domenica comunque è un fuori classe, e dalla quale sta venendo fuori Mick. Quindi aspettiamo, vediamo, a me piacerebbe solo sapere un giorno che in una stanza di una residenza in Svizzera il papà ha potuto sorridere apprendendo le notizie delle imprese del figlio. Adesso biscotti, pere, ma anche banane, perché Marino Bartoletti l'altro giorno ha scritto un post su Facebook molto illuminante su una buccia di banana che ha pestato la signora. Marino, tanto ci sono degli sviluppi sulla vicenda perugina, perché vabbè, perché l'inchiesta va avanti, perché si dice che la Juventus ha il tracciato, le indagini, che ha mollato il colpo con Suarez dopo che ha saputo dell'apertura di queste indagini. Ora vedremo cosa succede, però mi riassumi il post della buccia di banana? Ma prima ti dico che per quanto riguarda il biscotto, you may say I'm a dreamer, but I think the only one, perché io spero ancora che questo biscotto non si faccia. Avete sentito prima che durante il traffico hanno detto che c'è un blocco oltre Viale Zara, che vuol dire due uscite dopo la Pero Cormano. Esatto. A me piace immaginare che siano camion della Motta, dell'Alemagna, delle Tre Marie che stanno portando panettoni verso quella zona, perché questo biscotto non avvenga, perché sarebbe l'ennesima cosa mortificante che non fa del bene al calcio, soprattutto vedendo coinvolta una squadra come Real Madrid. Così come è sicuramente molto mortificante, molto malinconico quello che accade attorno alla vicenda della quale mi hai chiesto un'opinione. È chiaro che dobbiamo essere garantisti, è chiaro che bisogna aspettare le sentenze, è chiaro che non bisogna emettere giudizi preventivi, ma è altrettanto chiaro che è stata fatta una fesseria, una leggerezza che non ci si aspetta da una grande società che dovrebbe essere un esempio, dovrebbe volare sempre molto molto alto. Io credo che questo comportamento abbia mortificato i giocatori, abbia mortificato i tifosi, abbia mortificato quelli che credono veramente, come dire, nei valori altissimi del mondo del calcio. Cadere per questa fesseria, scivolare su questa fesseria, credo che veramente sia una cosa di una tristezza infinita. Comunque vada a finire questa faccenda. Ma può essere un segnale di fine ciclo? Beh, non questo, e non questo sinceramente. Io credo che i segnali di fine ciclo siano già stati colti almeno un anno fa, e continuo a dire che forse è grazie a Sarri, non per colpa di Sarri, che si è raccattato lo scudetto dello scorso anno. Ora è vero che una squadra con lo scudetto sul petto, teoria, parte sempre favorita anche l'anno dopo, però effettivamente tante cose sono consumate, a cominciare dall'entusiasmo, dalla fame, dalla voglia di vincere, tutte cose che non sono assolutamente quantificabili. Forse questo è l'anno in cui deve riflettere un po' di più sul futuro Juventus di quanto non abbia fatto adesso, e forse anche la sindrome del marchese del Grillo in certe piccole cose dovrebbe farsela passare. Quanto invece ai camion, non so se sono davvero tir di industrie dolciarie sulla Pero Cormano, Leo, puoi confermare? Allora, sull'ultimo episodio di cui avete parlato, io posso solamente dire che più divertente della storia di Perugia a proposito di Suarez ricordo solo Totò Truffa, un film memorabile di mio Taranto del 62. Ma si vede, guarda, te lo dico da interesse, che quando ci sono di mezzo i passaporti, penso a Recoba, nel calcio italiano scatta una molla che fatalmente scivola nel grottesco. Poi ci pensa la magistratura, dice come sono andate le cose. No, beh, adesso sul discorso della pasticceria di Madrid bisogna essere anche qui intellettualmente onesti. Se io fossi del Borussia e Marino fosse del Real, domani sera cosa facciamo? Giochiamo a scannarci oppure scommettiamo sul fatto che l'Inter comunque gli ucraini li batte e quindi io e Marino passiamo il turno? Qui non è un discorso, voglio dire, di combine, di trucchi. Vi ricordate il famoso Svezia-Danimarca 2-2, no? No? L'Europeo 2004? Se ci parli adesso con Sovieni di Danese dicono no, giochiamo la partita, poi venne fuori un pareggio che guarda caso accomodava la situazione per entrambe. L'ascoltatore che ha telefonato prima, che tu hai fatto sentire, ha ragione: se l'Inter esce dalla Champions è per colpa dei suoi errori. Dopodiché niente, vediamo un pochino, insomma. È anche vero che se l'Inter non batte gli ucraini, il Real col pareggio va fuori, possono anche fare una pasticceria. Potrebbe anche essere che alla fine il cannone gli vada di traverso. Guarda, la mia strategia è questa: io se sono Conte, che come tu sai adoro, parlo del Conte interista, non mi estendo a questioni di governo, direi ai ragazzi domani sera: ragazzi, fino all'83esimo non si muove foglia, giochiamo per fare 0-0. Sì, no, è condivisibile. No, è il discorso che abbiamo fatto anche noi, cioè difendere la sconfitta, cioè il pareggio o la vittoria di misura, e poi le radioline funzionano in tutto il mondo ormai, si ascolta ovunque, anche il Bar Tour. Grazie ragazzi, grazie a Leo Turini e Marino Bartoletti, ovviamente a Claudio Schiattone in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia, e ci sentiamo domani alle 2. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy! Saluti!